La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il lavoro è sempre ed è un grande problema per i cittadini italiani, anche oggi dopo 70 anni, ma la Costituzione lo definisce come diritto. Quindi i cittadini hanno diritto a lavorare perché in fondo lavorando ciascuno secondo le proprie possibilità concorrono a fondare la Repubblica. Articolo 1, l'Italia Repubblica Democratica fondata sul lavoro. È molto importante che la Repubblica riconosca ai cittadini il diritto al lavoro, ma non è solo un riconoscimento formale, ma soprattutto la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ecco allora tutta l'organizzazione di base, gli uffici di collocamento, tutte le leggi a favore dei lavoratori, a favore delle condizioni dei lavoratori, perché alla fine l'idea è proprio quella di base di fare questo grande ingranaggio in cui ciascuno contempera le proprie forze, le proprie esigenze per creare lo Stato, per fare lo Stato. Ecco come chiude l'articolo 4. Che cos'è il lavoro? Il lavoro in fondo è quella funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. Anche qui sentiamo una formula che può sembrare retorica, ma in fondo è l'idea del Costituente. Poniamoci con la mente al 46-47, uno Stato in difficoltà dopo la guerra civile, difficoltà economiche, ciascuno deve partecipare per ricostruire l'Italia più forte e più salda.